Se dovessi descrivere la parola fragilità con una parola chiave, come la descriveresti? Devo ammettere che a questa domanda non sapevo rispondere, ci ho dovuto pensare un po' ed essere anche un po' aiutato. Comunque farfalla, perché è carina, ha un volo che mi piace, ma ha la durata di vita di un giorno.